Le arringhe e le prediche hanno prodotto sul popolo l'effetto che ci si attendeva. Nel primo mese dopo l'insurrezione, il timore dell'arrivo di Saint Romain al comando dei 3 battaglioni migliori ha suscitato una preoccupazione penosa e ha indotto a organizzare la difesa con zelo. Il secondo mese, gli arechipegni avevano acquistato fiducia nei loro preparativi e nel trionfo che il monaco prometteva al loro valore, si erano abituati all'idea della lotta nella quale stavano per impegnarsi e attendevano il nemico a piè fermo. Ma il terzo mese la loro impazienza non conosceva più limiti. La lentezza di Saint Romain nell'arrivare è sembrata loro una testimonianza della paura che gli ispiravano. Il loro coraggio è aumentato e, come succede sempre ai popoli che non hanno esperienza, essi sono passati dal terrore alla iattanza e questo atteggiamento fanfarone ha dato alle persone ragionevoli delle giuste preoccupazioni. Esse temevano i rovesci e provavano inquietudini non meno crudeli verso le conseguenze della vittoria, ottenuta da uomini tanto vigliacchi e presuntuosi. Dal momento in cui, nella loro cieca fiducia, essi hanno creduto di aver vinto la battaglia, senza conoscere il nemico contro cui dovevano combattere, hanno fatto a gara chi commetteva più sciocchezze, dal generale in capo fino all'ultimo impiegato del municipio. Era uno spettacolo penoso. Mi sono resa conto in quel momento che qualunque cosa fosse successa, il paese era perduto. La vittoria di Nieto, come quella di San Román, avrebbero inevitabilmente portato alla necessità di nuove tasse, alla spoliazione delle proprietà e ai saccheggi di ogni tipo. Il 21 marzo Althaus mi ha detto: «Florita, dopotutto sembra che il generale abbia delle informazioni precise. San Román sarà qui domani o dopodomani. Ci credereste che fino ad ora, malgrado l'enorme somma spesa per le spie, non siamo riusciti a sapere nulla di preciso su quello che succede nel campo nemico? Il generale non vuole che mi mischi. L'amor proprio di quello sciocco deve sentirsi ferito da un saggio consiglio, così mi nasconde tutto quello che può». Da 2 giorni le truppe erano rientrate in caserma, stremate dalle fatiche e dalle privazioni sopportate al campo. Ma, secondo una notizia sicura, il generale avrebbe dovuto affrettarsi a farle nuovamente uscire per riprendere la posizione appena lasciata o per stabilirsi in un'altra, richiesta dalle circostanze. Ogni militare dotato di buon senso non avrebbe dovuto tralasciare alcuna precauzione per evitare sorprese da parte del nemico e prevedere le misure da prendere per evitare disordini. Ma Nieto ha lasciato gli affari nell'abbandono, senza dare disposizioni, ed è andato a Tiavalla con gli altri capi a festeggiare la Settimana Santa. Il giorno dopo, verso le 4 del pomeriggio, è arrivata di corsa una spia a dire che il nemico era a Cangallo. C'è stato un pandemonio generale. Si correva a cercare Nieto, si radunavano gli immortali, le truppe uscivano in disordine dalle caserme, i chacareros rifiutavano di marciare per la paura e i peruques del municipio commettevano una sciocchezza dopo l'altra. La confusione era al colmo. Era evidente la profonda ignoranza e l'assoluta nullità di quei presuntuosi capi civili e militari responsabili del destino del paese in rovina. Se descrivessi lo spreco che si è fatto di tutto, le scene di disordine e di indisciplina, il comportamento degli ufficiali che alla vigilia di una battaglia, invece di essere al loro posto, erano a giocare, a ubriacarsi o dalle loro amanti, non sarei probabilmente creduta. Quello che è accaduto quella sera e la notte seguente sarebbe impensabile per un europeo, se Saint Romain fosse stato informato della situazione. Avrebbe potuto impadronirsi della città quel giorno stesso senza combattere. Nessuno sarebbe stato in grado di tirare un solo colpo di fucile per impedirlo. La guerra si sarebbe conclusa in 3 ore. Si deve rimpiangere che ciò non sia accaduto. Si sarebbe risparmiato molto sangue e si sarebbero evitati molti mali. I conventi di Arequipa. Come ho già detto, Arequipa è la città del Perù che possiede più conventi maschili e femminili. L'aspetto della maggior parte di essi, la calma perenne che li circonda, l'atmosfera religiosa che ne scaturisce, inducono a pensare che se sulla terra esistono la pace e la felicità, è in questi asili del Signore che esse risiedono, non nel mondo esterno e nella sua confusione. Ma ahimè, non è nei chiostri che può essere soddisfatto il bisogno di riposo di un cuore disilluso dal mondo. All'interno di questi immensi edifici non c'è la quiete sepolcrale che il loro aspetto esterno, scuro e freddo, potrebbe far supporre, ma un'agitazione febbrile, ingabbiata, ma non soffocata dalla regola. Il tumulto, sordo e nascosto, ribolle sotto la superficie, come la lava racchiusa nelle pareti del vulcano. Ogni volta che passavo davanti all'androne, sempre aperto di uno di questi conventi, in cui non ero mai entrata, o camminavo lungo le grandi mura nere del recinto, alte 30 o 40 piedi, mi si stringeva il cuore. Provavo una profonda pena per le sfortunate vittime sepolte vive in quegli ammassi di pietra, e gli occhi mi si riempivano di lacrime. Durante il mio soggiorno ad Arequipa andavo spesso a sedermi sulla cupola in cima alla nostra casa. Da quella posizione lasciavo vagare lo sguardo sul vulcano, sul bel fiume che scorre ai suoi piedi, sulla valle ridente che esso bagna, sui due splendidi conventi di Santa Catalina e di Santa Rosa. Quest'ultimo in particolare stimolava i miei pensieri e catturava l'attenzione. Nel suo triste chiostro si era svolto un dramma commovente, la cui eroina era una giovane bella, innamorata e sfortunata. Questa ragazza era mia parente e io provavo molta simpatia per lei, ma a causa dei fanatici pregiudizi del mondo circostante, potevo vederla solo di nascosto. Benché lei fosse fuggita dalla clausura 2 anni prima del mio arrivo ad Arequipa, l'impressione prodotta dalla sua fuga era ancora molto viva, perciò dovevo essere prudente nel mostrare interesse verso questa vittima della superstizione, altrimenti non avrei potuto esserle utile e avrei corso il rischio di aumentare il fanatismo dei suoi persecutori. Quello che Dominga, questo era il nome della giovane religiosa, mi aveva raccontato di sé, mi invogliava a conoscere il convento dove aveva languito per 11 anni. La sera, quando salivo sulla sommità della casa per ammirare i colori tenui e malinconici diffusi dagli ultimi raggi del sole che scompariva dietro ai 3 vulcani e colorava di porpora le sue nevi eterne, i miei occhi si posavano involontariamente sul convento di Santa Rosa. Nella mia immaginazione vedevo mia cugina Dominga vestita del lungo e pesante abito delle carmelitane, vedevo il suo lungo velo nero, i suoi sandali di cuoio con le fibbie di rame e la disciplina di cuoio che pendeva fino a terra. La disciplina era un mazzo di funicelle con nodi usato in alcuni ordini religiosi per la flagellazione penitenziale. Di tanto in tanto la sventurata stringeva con fervore l'enorme rosario e chiedeva a Dio di essere aiutata nell'esecuzione del suo progetto. Poi lo stritolava fra le mani contratte da una rabbia disperata. Mi sembrava di vederla apparire in cima al campanile della bella chiesa di Santa Rosa, dove era solita andare tutte le sere, con il pretesto di controllare le campane e l'orologio affidati alle sue cure. Dall'alto della torre la giovane poteva contemplare la stretta e graziosa valle dove aveva passato la sua infanzia felice. Vedeva la casa della madre, osservava le sorelle e i fratelli correre e folleggiare in giardino. Come le apparivano felici di scorrazzare e giocare in libertà. Come ammirava i loro vestiti colorati e i bei capelli ornati di fiori e di perle. Come le piacevano le loro scarpe eleganti, il grande scialle di seta, la sciarpa leggera di garza. A quella vista l'infelice si sentiva soffocare sotto il peso dei pesanti vestiti, odiava la propria camicia, le calze, il vestito lungo e ampio di ruvido tessuto di lana. Le scarpe dure le ferivano i piedi, il lungo velo nero di lana, sempre abbassato, era per lei come il coperchio della bara per il malato di letargia. Dominga lo respingeva con un gesto convulso e dal suo petto uscivano gemiti sordi mentre cercava di far passare le braccia fra le sbarre che chiudono le finestre del campanile. La povera reclusa desiderava solo un po' d'aria, quella che Dio ha dato a tutte le sue creature, un piccolo spazio nella valle dove poter muovere le sue membra intorpidite. Chiedeva solo di cantare le arie di montagna, di danzare con le sorelle, di indossare come loro delle piccole scarpe rosa e una leggera sciarpa bianca e di mettere dei fiori di campo fra i capelli. Non era molto, ma un voto terribile, solenne, che nessun potere umano poteva sciogliere, la privava per sempre dell'aria pura e dei canti gioiosi, dei vestiti adatti alla stagione e alla sua età e del movimento utile alla salute. A 16 anni la sventurata, spinta da un gesto di dispetto e di amor proprio ferito, aveva voluto rinunciare al mondo. L'ignara ragazza si era tagliata da sola i lunghi capelli, li aveva gettati ai piedi della croce, giurando davanti al Cristo di prendere Dio come sposo. La storia della monaca aveva fatto rumore ad Arequipa e in tutto il Perù. Io l'ho trovata abbastanza straordinaria e ho deciso di inserirla nella mia relazione. Prima però voglio descrivere l'interno di Santa Rosa. In tempi normali i conventi sono inaccessibili, per entrare ci vuole il permesso del vescovo che dopo l'evasione della monaca non viene più concesso, ma nelle circostanze in cui si trovava la città i monasteri offrivano asilo alla popolazione spaventata. Mia zia e Manuela giudicavano prudente rifugiarvisi e io ho approfittato di questa circostanza per informarmi sui dettagli della vita monastica. Poiché Santa Rosa era sempre presente nei miei pensieri, ho fatto di tutto per convincere le mie parenti a dargli la preferenza rispetto a Santa Catalina, dove sembravano più propense ad andare. Le superiore di questi due conventi erano nostre cugine, entrambe ci avevano rivolto inviti affettuosi per attirarci, offrendo l'ospitalità migliore. Santa Rosa eccitava la nostra curiosità per la sua bellezza, ma le signore temevano l'estrema severità dell'ordine delle Carmelitane, che non si allentava in alcuna circostanza. Ho avuto molta difficoltà a vincere la loro resistenza, ma alla fine l'ho spuntata. Ci siamo recate al convento una sera verso le 7, dopo aver inviato una nera ad annunciarci. Non credo che sia mai esistita, anche nello stato più monarchico, un'aristocrazia più altezzosa nelle sue distinzioni di quella di Santa Rosa, che mi ha riempita di stupore. Qui le classificazioni sono tutt'altro che vane e le gerarchie di nascita, di titolo, di ricchezza e di colore della pelle regnano in tutta la loro potenza. A veder camminare in processione le componenti della comunità, vestite con la stessa uniforme, si è portati a credere che una simile uguaglianza sussista in tutto il resto, ma quando si entra in uno dei cortili, si è sorprese dall'orgoglio che le donne nobili manifestano verso le donne di nascita plebea, dal disprezzo che le religiose di pelle bianca mostrano verso quelle di colore, che le ricche mostrano verso le povere. Vedendo questo contrasto fra l'apparente umiltà e l'orgoglio più indomabile, si è tentate di ripetere le parole del saggio, vanità delle vanità. Siamo state ricevute sulla porta dalle religiose mandate dalla superiora. La deputazione, con tutto il cerimoniale voluto dall'etichetta, ci ha condotte fino alla cella della madre, che era a letto malata. Il giaciglio era sorretto da una scala, sui gradini della quale erano sistemate molte religiose in ordine gerarchico. Gli scalini erano coperti da un tappeto di lana bianca ruvida che dava al letto l'aspetto di un trono. Siamo rimaste abbastanza a lungo accanto alla venerabile superiora e una delle sue dame di compagnia ci ha spiegato a bassa voce che la madre era addolorata per essere stata costretta dalla malattia a usare lenzuola di tela anziché di lana e di aver infranto in questo modo la regola del sacro ordine delle Carmelitas. Le suore erano molto curiose degli affari del mondo e con esitazione e ritegno mi hanno posto alcune domande sui costumi d'Europa. Dopo aver soddisfatto il loro desiderio di sapere, ci siamo ritirate nelle celle che ci avevano preparato. Ho chiesto a una delle giovani suore se poteva mostrarmi la cella di Dominga. Domani vi darò la chiave, mi ha risposto, perché possiate entrare, ma non dite nulla, perché qui la povera Dominga è maledetta. Solo tre di noi osano compiangerla. Santa Rosa è uno dei conventi più grandi e più ricchi di Arequipa. La suddivisione interna dei locali è molto comoda. Ci sono quattro chiostri, circondati da grosse colonne di pietra, che sorreggono una volta bassa, e ognuno di essi racchiude un cortile spazioso. Tutti intorno si affacciano delle celle, le celle delle religiose, in cui si entra da una piccola porta bassa. Le celle, dalle pareti bianchissime, ricevono luce da una finestra a quattro vetri. Il mobilio consiste in uno sgabello e un tavolo di quercia, su cui ci sono una brocca di argilla e un bicchiere di stagno. Sopra il tavolo è appeso un grande crocifisso con un Cristo di osso ingiallito e annerito e la croce di legno nero. Accanto è attaccata la disciplina di cuoio nero. Sul tavolo sono appoggiati alcuni libri di preghiere, un breviario, un teschio e una piccola clessidra. Solo la superiora può dormire nella sua cella. Le suore la usano unicamente per meditare nell'isolamento e nel silenzio e per raccogliersi. Esse mangiano tutte insieme a mezzogiorno e alle 6 in un immenso refettorio e durante il pasto una di loro fa la lettura di alcuni passi delle sacre scritture. I dormitori delle religiose sono tre e sono costruiti in forma di squadra con i soffitti a volta. Non ci sono finestre che lasciano penetrare la luce del giorno. In un angolo c'è una lampada sepolcrale che getta una luce appena sufficiente a rischiarare uno spazio di 6 piedi, per cui le due estremità del dormitorio sono al buio. L'accesso ai dormitori è proibito alle persone strane, ma anche alle ragazze che lavorano nella comunità. Se ci si introduce di nascosto, sotto alle volte scure e fredde delle lunghe sale, fra gli oggetti che non si distinguono ma che si percepiscono, si ha l'impressione di essere scesi nelle catacombe. I luoghi sono talmente lugubri che è difficile reprimere un moto di spavento. Le tombe, ovvero i posti in cui ogni suora si ritira per dormire, vengono chiamati così, sono allineate ai lati del dormitorio e fra l'una e l'altra ci sono 12 o 15 piedi di distanza. Per la loro forma a disposizione, somigliano davvero alle tombe che si vedono nelle cripte delle chiese. Sono ricoperte di lana nera, simile a quella dei paramenti delle cerimonie funebri. L'interno è lungo 10 o 12 piedi, largo 5 o 6 e alto altrettanto. Il letto è fatto di due grosse assi di quercia poggiate su 4 pioli di ferro e sopra c'è un grosso sacco di tela, riempito di cenere, di ciottoli, di paglia, di lana e persino di spine, secondo la santità di chi vi riposa. Nelle tre tombe in cui sono entrata, il sacco era riempito di paglia. Ai piedi del letto c'è un piccolo mobile di legno nero che serve da tavolo, da inginocchiatoio e da armadio. Sopra questo mobile è posato un crocefisso, accanto al quale sono disposti un teschio, un libro di preghiere, un rosario e una disciplina che ricordo essere la frusta con cui ci si puniva. È severamente proibito, in qualunque circostanza, avere la luce nelle tombe. Quando una suora è malata, va all'infermeria. Pensare che in una di queste tombe la mia povera cugina Dominga aveva dormito per 11 anni. Boh! Queste religiose conducono una vita faticosa, si alzano alle 4 per andare al mattutino, poi devono assistere a una serie di pratiche religiose che si succedono quasi senza interruzione fino a mezzogiorno, quando sono chiamate in refettorio. Da mezzogiorno alle 3 godono di un po' di riposo, poi ricominciano con le preghiere che si prolungano fino a sera. Questi doveri si aggiungono alle numerose feste, con le processioni e le altre cerimonie imposte alla comunità. Questa è la percezione che ho avuto dell'austerità e degli obblighi della vita religiosa nel chiostro di Santa Rosa. Il solo passatempo di queste recluse è la passeggiata nei loro tre magnifici giardini, nei quali coltivano dei fiori splendidi curati con grande amore. Quando prendono il velo, le suore di Santa Rosa fanno voto di povertà e di silenzio. Quando due di loro si incontrano, una deve dire: "Sorella, noi dobbiamo morire", e l'altra deve rispondere: "Sorella, la morte è la nostra liberazione", senza pronunciare una sola parola di più. Tuttavia, esse parlano molto durante il lavoro in giardino, quando vanno a sorvegliare le donne di servizio in cucina, quando il dovere le chiama sulle torri e sui campanili e quando vanno a farsi visita di nascosto nelle celle. Insomma, le buone donne parlano ovunque se credono di poterlo fare senza violare il voto. Poi, per mettersi la coscienza in pace, esse osservano un silenzio di tomba nei cortili, nel refettorio, in chiesa e soprattutto nei dormitori dove mai si è udita voce umana. Non sarò certo io a mettere sotto accusa le piccole trasgressioni alla regola del Santo Ordine delle Carmelitane. Trovo del tutto naturale che esse cerchino le occasioni per scambiare qualche parola dopo le lunghe ore di silenzio. Vorrei però, per la loro felicità, che si limitassero a parlare dei fiori che coltivano, delle buone marmellate che preparano e dei dolci squisiti che confezionano così bene, oppure delle magnifiche processioni, delle pietre preziose della Vergine o del loro confessore. Sfortunatamente non si limitano a questi argomenti e nei loro colloqui regnano la critica, la maldicenza e la calunnia. È difficile farsi un'idea delle piccole gelosie e delle basse invidie provate, delle crudeli cattiverie messe in atto. I rapporti di queste religiose non sono viscidi e untuosi, ma sono ispirati all'aridità, all'asprezza e all'odio. Anche nell'osservazione del voto di povertà, queste donne non sono rigorose. Mi hanno detto che secondo il regolamento nessuna dovrebbe avere più di una ragazza al proprio servizio. Invece molte di loro hanno 3 o 4 schiave alloggiate all'interno del monastero e una all'esterno per fare le commissioni, comprare quello che desiderano, comunicare con la famiglia e con il mondo. Nella comunità vi sono alcune religiose in possesso di una fortuna considerevole, che fanno dei ricchi regali al convento e alla chiesa e mandano spesso ai conoscenti in città della frutta, dei dolci, dei piccoli lavori e alle persone amate dei doni di valore più grande. Santa Rosa è considerato uno dei monasteri più ricchi del Perù, tuttavia le religiose mi sono parse più infelici che in altri e l'esattezza della mia osservazione mi è stata confermata. Tutti mi hanno assicurato che l'austerità delle suore di Santa Rosa superava di gran lunga quelle a cui si sottopongono le religiose degli altri conventi. Nei 3 giorni in cui sono stata al Santa Rosa ho avuto molti colloqui con la superiora. Riporto alcuni passaggi per far conoscere lo spirito che guida questa comunità. La superiora aveva allora 68 anni e dirigeva la comunità da 18. Da giovane doveva essere stata molto bella e il suo nobile aspetto rivelava una grande forza di volontà. Era nata a Siviglia e suo padre l'aveva messa a Santa Rosa quando era venuta da Arequipa all'età di 7 anni per farle dare un'educazione. Da allora non ne era più uscita. Parlava spagnolo con grande correttezza ed eleganza ed era istruita quanto può esserlo una religiosa. Le domande che mi ha fatto sull'Europa dimostravano che si era occupata molto degli avvenimenti politici che hanno sconvolto la Spagna e il Perù negli ultimi 20 anni. Parlando di Dominga mi ha detto: quella ragazza era indemoniata e sono contenta che il demonio abbia scelto il mio convento perché questo episodio servirà a ravvivare la fede delle altre sorelle. Mia cara Flora, vi confiderò una parte delle mie pene. Ogni giorno vedo spegnersi nel cuore delle giovani suore quella fede forte che sola può far credere ai miracoli. Non credo che l'effetto prodotto dalla fuga di Dominga potesse essere quello sperato dalla superiora, anzi, esso mi sembrava di natura tale da provocare imitazioni. Dubito anche che lei si facesse illusioni al riguardo, ma parlando davanti alle suore riteneva fosse suo dovere fare questa riflessione. Questa donna, così austera e rigorosa, ha saputo farsi obbedire e rispettare dalle sue religiose, usando il pugno di ferro, ma in tanti anni di comando non ha ottenuto l'affetto sincero di alcuna di loro. I 3 giorni passati in convento avevano talmente affaticato mia zia e le mie cugine che, malgrado i pericoli, non volevano restarvi più a lungo. Quanto a me, quella breve permanenza mi aveva permesso di raccogliere molte informazioni e non mi ero affatto annoiata. Le austere religiose ci hanno accompagnate all'uscita con lo stesso cerimoniale e la stessa etichetta con cui ci avevano accolte. Appena abbiamo oltrepassato l'enorme porta di quercia sbarrata e bardata di ferro come quella di una cittadella, ci siamo messi a correre nell'ampia via di Santa Rosa, piangendo di gioia e gridando: Dio, che felicità essere libere! Anche i bambini e le nere saltellavano contente. Per quanto mi riguarda, devo dire che respiravo molto meglio. Libertà, cara libertà, non c'è corrispettivo alla tua perdita. Neanche la sicurezza e niente al mondo ti può rimpiazzare. Il giorno dopo il nostro ingresso a Santa Rosa, Althaus ci aveva fatto sapere che la notizia che avevamo appreso dall'indio era falsa e che costui era un delatore. San Romano sarebbe arrivato prima di 15 giorni. Purtroppo, la sera in cui siamo uscite, mio cugino ha ricevuto un altro allarme. Sembrava sicuro che San Romano fosse a Cangallo e la sua presenza in un luogo che si trovava a sole 4 leghe da Arequipa rendeva il pericolo imminente. Appena si è diffusa la notizia, il disordine è stato di poco inferiore a quello creato dal primo allarme. Le campane suonate a martello, la gente rifugiata nei conventi, la confusione, il terrore, non mi hanno fatto una buona impressione del coraggio di questo popolo vanaglorioso che avrebbe dovuto difendere la città fino all'ultimo respiro. I conventi e le chiese si sono trasformati in magazzini per la custodia dei mobili, dove per 15 giorni è stato nascosto tutto quello che si poteva trasportare. Le case erano completamente vuote e sembravano essere state saccheggiate. Io stessa ho fatto portare i miei bauli a Santo Domingo con gli effetti personali dello zio. A mezzogiorno ci avevano detto che il nemico era Cangallo e ci aspettavamo di vederlo arrivare verso le 6 o le 7 di sera. Le cupole delle case erano gremite di persone che guardavano in tutte le direzioni, ma l'attesa generale è stata delusa perché l'avversario ha prolungato la sosta. Althaus, di ritorno dal campo, mi ha detto: «Cugina, questa volta è proprio vero che San Romano è a Cangallo, ma i suoi soldati sono sfiniti e io sono sicuro che avranno bisogno di 3 o 4 giorni per riprendersi. Potete andare a trovare Manuela e dall'alto delle torri del monastero vedrete la mischia come dalla casa di vostro zio». Ho seguito il suo consiglio e sono andata a Santa Catalina a raggiungere le mie parenti, che vi si erano rifugiate. Ero di nuovo in un convento, ma che differenza con quello che avevo appena lasciato. Sono stata accolta da un rumore assordante, al grido di «La Francesita! La Francesita!». Appena la porta si è aperta, sono stata circondata da una dozzina di suore che parlavano tutte insieme, ridendo e saltando di gioia. Senza esagerare, sono rimasta un buon quarto d'ora sul portone d'ingresso, che serviva anche da ruota, temendo a ogni istante di essere soffocata dal caldo nel poco spazio lasciatomi da quelle suore giubilanti e dalla moltitudine di nere e di samba che mi attorniavano. Le mie parenti, che avevano visto la difficoltà della mia posizione e avevano intuito la mia sofferenza, cercavano di aprirsi un varco a fatica fino al luogo in cui mi trovavo, mentre la mia samba gridava con tutte le sue forze che mi stavano soffocando, che mi facevano male e chiedeva aiuto. Ma le sue grida e quelle delle mie cugine erano coperte da più di 100 voci all'unisono. «Ah, la Francesita, che bonita es! Viene aquí a vivir con nosotras!» Cominciavo seriamente a disperare di riuscire a liberarmi prima di perdere i sensi. Sentivo mancarmi le gambe, ero madida di sudore, stordita dal baccano che c'era intorno a me, al punto che non sapevo più dove fossi. Finalmente è venuta a ricevermi la superiora, che era cugina di quella di Santa Rosa e nostra parente allo stesso grado. Al suo arrivo il rumore si è calmato un poco e la folla si è aperta per lasciarla venire verso di me. Mi sentivo veramente male. La brava donna se n'è accorta, ha sgridato severamente le suore e ha dato ordine di far rientrare le nere. Mi ha condotta nella sua cella, bella e grande, e dopo avermi fatta sedere su dei ricchi tappeti e dei morbidi cuscini, mi ha fatto portare su uno dei più bei vassoi fabbricati a Parigi diversi tipi di dolci fatti in convento e dei vini di Spagna dentro a delle belle bottigliette di cristallo con uno splendido bicchiere dorato ornato dallo stemma di Spagna. Appena mi sono rimessa, la superiora ha voluto accompagnarmi alla cella che mi aveva assegnato. Che amore di cella! Quante delle nostre padrone di casa francesi la vorrebbero come boudoir! Immaginate una piccola stanza con il soffitto a volta, larga 10 o 12 piedi e lunga 14 o 16, con il pavimento interamente coperto da un bel tappeto inglese dai disegni orientali, una piccola porta ogiva e 2 piccole finestre nello stesso stile, guarnite di tende di seta color ciliegia con delle frange nere e azzurre. Lungo una parete della stanza c'era un piccolo letto di ferro verniciato con un materasso di traliccio inglese e delle lenzuola di batista ornate di pizzo di Spagna. Di fronte c'era un divano anch'esso di traliccio inglese e ricoperto da un ricco tappeto proveniente da Cusco. Accanto al divano c'erano dei cuscini per gli ospiti e dei graziosi sgabelli rivestiti di stoffa da tappezzeria, e nel muro di fondo c'era una nicchia occupata da una bella console con il ripiano di marmo bianco che faceva abbastanza bene le veci di un piccolo altare. Sulla console c'erano molti bei vasi pieni di fiori naturali e artificiali, dei candelieri d'argento con delle candele azzurre, un piccolo messale rivestito di velluto viola e chiuso con un minuscolo lucchetto d'oro. Sopra la console erano collocati un piccolo Cristo di quercia di bella fattura accanto a una Vergine in una cornice d'argento e a Santa Caterina e Santa Teresa dentro a guarnizioni preziose ai lati. Attorno al collo del Cristo era avvolto un rosario dei grani piccoli e graziosi. Per completare questo elegante mobilio, al centro della stanza c'era un tavolo coperto da un grande tappeto sul quale c'era un vassoio con 4 tazze da tè, una caraffa di cristallo, un bicchiere e tutto il necessario per rinfrescarsi. Questo magnifico eremo Era il ritiro della superiora, che mi dimostrava un'amicizia entusiasta per il solo motivo che venivo dal paese dove viveva Rossini. Malgrado le mie insistenze per non accettare, ella ha voluto a tutti i costi che io alloggiassi nel suo ritiro. L'amabile religiosa mi ha tenuto compagnia fino a tardi. Abbiamo parlato soprattutto di musica e di affari europei, verso cui tutte mostrano un vivo interesse. Poi si è ritirata, circondata dalle sorelle che la amano come una madre e un'amica. In 10 anni di viaggio ho dovuto cambiare spesso letto e abitazione, ma non ricordo di aver mai provato una sensazione più deliziosa di quando mi sono coricata nel piccolo letto confortevole della superiora di Santa Catalina. Come una bambina ho acceso le due candele sull'altare, ho preso il piccolo rosario e il grazioso libricino di preghiere e sono rimasta a lungo a leggere, interrompendomi spesso per ammirare gli oggetti che mi attorniavano o per respirare con voluttà il dolce profumo che emanava dalle lenzuola guarnite di pizzi. Quella notte ho avuto quasi il desiderio di farmi suora.